comportarsi in modo degno del Vangelo. Per un certo periodo di tempo, un'affermazione della Scrittura «comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo» non lasciava in pace la mia mente. Credendo che il Signore mi stesse dicendo qualcosa, ho controllato qual era il contesto in cui questa affermazione trovava luogo. Eccolo. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, Filippesi 1:27. Con mia sorpresa ho notato che Paolo non aveva rivolto tale esortazione ai Galati, i quali cercavano la perfezione per mezzo delle opere. Non l'aveva rivolta neppure ai Corinzi, i quali, quantunque ricchi di doni spirituali, si comportavano, in talune circostanze, peggio degli increduli. E, neppure, l'aveva indirizzata ai Colossesi, i quali erano attirati dal culto degli angeli. Paolo l'aveva rivolta ad una chiesa che poteva essere presa ad esempio come modello, quella di Filippi. L'ordine di Paolo mi sembra abbastanza chiaro: come il soldato deve onorare la divisa che indossa, come il giudice deve onorare l'incarico che riveste, così il cristiano deve onorare il messaggio che predica, deve onorare il mandato che Dio gli ha affidato. Paolo inizia la sua lettera dicendo ai Filippesi che essi erano, per lui, un motivo di gioia e di allegrezza, e che li amava svisceratamente. 1:3:33. Poi passa a raccontare delle proprie esperienze, della propria fede e fiducia in Dio. E, solo dopo aver premesso questo, che egli ordina, soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo. La parola soltanto è significativa. E, come dire, caro Giovanni, sei un bravo ragazzo, sei serio. Ti ammiro per le tue virtù, soltanto cerca di un soltanto che mette in evidenza una mancanza. Quel soltanto, rivolto ai Filippesi, significa che essi avevano una lacuna, dovevano cambiare un certo comportamento per onorare il Vangelo. Cosa dovevano fare i Filippesi? Che cosa aveva Paolo da riferire di così importante, sia ai diaconi che ai conduttori? Dovevano evitare grossi peccati, come i credenti di Corinto. Dovevano evitare errori dottrinali, come i credenti di Colosse. No. L'invito di Paolo, rivolto alla chiesa di Filippi, era riferito a quattro atteggiamenti che avrebbero dovuto assumere i credenti per onorare il Vangelo di Cristo. Se noi non riteniamo di essere migliori di loro, facciamo nostri questi richiami. Consideriamoli. 1. State fermi in uno stesso spirito, con un medesimo animo. 2. La parola stesso, o medesimo, è il termine chiave della lettera che Paolo ha rivolto ai Filippesi. Essi dovevano avere uno stesso sentimento, versione Luzzi. Stesso spirito, medesimo animo, stesso modo di pensare, stesso amore, una medesima mente. Questi continui richiami sono rivolti ad una chiesa che aveva bisogno di unità, di compattezza. In seguito, rivolge la stessa esortazione a due sorelle, affinché avessero uno stesso sentimento, una sola mente. 4:2. I Filippesi avevano tanto zelo e amore, ma non erano uniti, non avevano uno stesso animo. Cosa significa avere uno stesso sentimento o uno stesso animo? O una stessa mente. Una cosa è certa. A. Non si riferisce alla facoltà o all'atto di avere delle sensazioni, cioè non si riferisce ai nostri sentimenti. Un credente al quale è morto un parente piange, mentre un altro gioisce perché si è sposato il figlio. Non è possibile che tutti i credenti abbiano le stesse esperienze emotive allo stesso momento. B. Questo invito non significa che tutti i credenti debbano pensare nello stesso modo, perché così mancherebbe la pluralità delle opinioni. I figli di Dio non sarebbero complementari senza le loro diversità. La Scrittura, quando si riferisce ai credenti, li paragona sempre a delle pietre e non a dei mattoni, che sono tutti uguali. Volere spersonalizzare le persone

dovendosi giustificare col datore di lavoro, motivò il suo atteggiamento, dicendo che lui pensava di saperne più di me. Fu subito licenziato. Anche nelle chiese è diffuso lo spirito di indipendenza. I credenti non si sottomettono gli uni agli altri. A volte i giovani nella fede infieriscono contro i vecchi senza tenere presente il santo rispetto per la loro età ed esperienza. È vero che gli anziani, sia di età che conduttori, non hanno sempre ragione, ma ho notato che se un giovane nella fede non rispetta i più maturi, non fa progressi nel suo cammino di fede. Inoltre, dovendo diventare a sua volta conduttore e non avendo esercitata a suo tempo la disciplina dell'ubbidienza, non sapranno governare come si conviene, perché solo chi ha imparato a obbedire sa avere il giusto spirito di comando. Dobbiamo essere onesti. Quando qualcosa non va nella chiesa alla quale apparteniamo, la prima cosa che ci viene voglia di fare è buttare ogni cosa all'aria e poi vivere a modo nostro. Questo è lo spirito dell'individualismo. Vivere da individualisti non è condursi. Cristo è venuto per riunire i figli di Dio dispersi, ma non perché ognuno si faccia i fatti suoi. Il figlio di Dio, che lo voglia o no, è inserito nel corpo di Cristo. Dio ha dato al solitario una famiglia. Qualsiasi idea cristiana che tu abbia basata sulla Bibbia e di cui sei convinto che venga da Dio, se essa non conduce all'unione dei cristiani, deve essere per te un richiamo a rivedere il tuo comportamento, perché questo non onora il Vangelo. Sta scritto: chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza, o tutto quello che è profittevole. Proverbi 18:1. Si tratta di crederci. Lo psicologo Paul Tournier scrisse ancora: l'orgoglio dell'indipendenza è la più grande tentazione delle più dotate personalità. Spesso sono i credenti con doni evidenti a creare maggiori problemi nella Chiesa. Essi sanno servire il Signore, ma non hanno imparato a servire i fratelli. Ognuno di noi è un essere individuale che deve poter vivere indipendentemente dagli altri, senza però cadere nell'individualismo. Quando io, essere individuale, sono individualista. Quando faccio le cose per rivalità. E rivalità quando si formano chiese in opposizione di altre. E rivalità quando i credenti di una chiesa non possono frequentare la chiesa più vicina. E rivalità quando si predica per attaccare o contraddire qualcuno. E rivalità tutto ciò che non unisce la Chiesa di Dio. Cristo è morto per unire. Cristo si è abbassato per riconciliare gli uomini. E questo il nostro metodo per risolvere i problemi della Chiesa, della tua Chiesa? 3. Con umiltà ciascuno di voi stimi gli altri più di se stesso. 2:3. Questo ordine va compreso, diversamente si può arrivare a conclusioni assurde. Prima di tutto, non dice quello che sembra voler dire, cioè reputare gli altri sempre migliori di se stessi. Altrimenti, nella Chiesa non avrebbe senso la riprensione e Paolo avrebbe sbagliato, dicendo: siate miei imitatori, capitolo 3:17. Inoltre, il buon senso mi dice che non posso considerare un avvocato più abile di me per quello che riguarda il mio lavoro di saldatore, come un medico non può stimare me più capace di lui per quello che riguarda la sua professione. Ricordo un figlio di Dio che, facendo tutto sconsolato una considerazione nei riguardi di un altro fratello non dotato di certe capacità, concludeva: ma il Signore ci ha detto che dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi. Aveva un conflitto causato dalla propria interpretazione dell'affermazione di Paolo e la realtà. Il senso della frase di Paolo è quindi un altro. Paolo chiede che ognuno di noi riconosca l'opera che Dio sta compiendo nel fratello e abbia più considerazione per i doni degli altri che per i propri. Infatti, per natura siamo inclini a valorizzare i nostri doni, mentre invece dobbiamo avere la propensione a mettere in risalto i doni dei fratelli. Questa è una grande esortazione soprattutto per i conduttori, i quali sono chiamati a vegliare sul gregge per evidenziarne i doni per metterli in risalto. Gesù si preoccupò dei suoi discepoli fino alla fine. Stimare il dono degli altri più del nostro è onorare il Vangelo. Adoperarsi perché i doni dei fratelli siano messi in evidenza è onorare lo spirito del Vangelo. 4. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 2. 4. Ognuno di noi è chiamato ad occuparsi delle proprie faccende. Ma, come Gesù visse sempre proteso verso il prossimo così, anche noi non dobbiamo occuparci solo dei nostri interessi. Questo principio, messo in pratica, risolverebbe un problema sociale non piccolo. E, triste quando, in una chiesa, vi sono persone che non trovano un aiuto. E, triste quando, in una chiesa, non si conosce il rapporto di amicizia, di soccorso. Una chiesa funziona bene quando i suoi membri non hanno bisogno di aiuti esterni. La chiesa alla quale appartengo tempo fa aveva bisogno di definire i turni di pulizia della sala, ma non si trovava un accordo. Quando però qualcuno avanzò la proposta di rivolgersi ad un'agenzia di pulizie, io mi opposi fortemente. Fu allora che una sorella si offerse per tale incarico. Cercare l'interesse del fratello vuol dire interessarsi ai suoi bisogni. Ho conosciuto un fratello veramente particolare in questo. Alle agapi, durante il pasto, notava chi non aveva mangiato abbastanza. Concludendo, possiamo dire che i filippesi erano dei credenti modello perché amavano Dio e la sua opera, perché avevano collaborato con Paolo alla predicazione del Vangelo. Soltanto avevano 4 atteggiamenti da correggere affinché l'Evangelo potesse essere onorato. 1. Dovevano essere disposti all'umiltà. 2. Non dovevano essere individualisti. 3. Dovevano interessarsi ai doni degli altri. 4. Dovevano essere servizievoli. Sono quindi più che mai significative le parole che Paolo rivolge in seguito ai filippesi. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo. In mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Filippesi 2, 12-16. Se ogni figlio di Dio ubbidisse a tali imperativi, darebbe alla Chiesa, alla quale appartiene, un impulso nuovo, perché il corpo di Cristo, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Efesini 4:16. Lamentandoci perché le cose non vanno come vorremmo, dovremmo prima di tutto interrogarci se noi facciamo la nostra parte. E, vero che vediamo meglio i difetti degli altri che i nostri, ma un giorno, davanti a Dio, ognuno di noi dovrà rendere conto del proprio operato, non di quello degli altri. La preghiera di André Dumas mi ha sempre toccato. Quando penso alla Chiesa, la vorrei tanto come essa non è. Avvincente, impegnata, chiaroveggente, militante, certamente anche multiforme, universale, segreta ed evidente, ricca e corroborante, povera e trasparente, imprevedibile e solida. In breve, oh Dio, mi piacerebbe che la tua Chiesa, che è la nostra Chiesa, mi offrisse tutto quello che io non le do. Allora, oh Dio, fa che la smetta di biasimare la Chiesa al fine di esimere me stesso dall'impegnarmi. Fa che la smetta di spiare i suoi difetti dal buco della serratura per esimermi dall'aprire la porta. Fa che abbandoni il banco degli spettatori e degli schernitori per sedermi sul banco degli attori e dei celebranti, perché solo così finirò di guardare da lontano la tua Chiesa, che è la nostra Chiesa, per vivere in essa assieme agli altri. Aprile 1980. Ellero.